mo metti una X seria per l'underground. Mo mettine un'altra se ti piace il sound. Mettine una ancora se ti piace questo beat. Pompa solo e unicamente Radio XXX. Portaci Chardonnay, in radio sai chi c'è. Presento ufficialmente Bino a.k.a. Binè. E se grazie alla tua musica fai muovere uno stadio, tu mandaci il tuo disco che ce lo pompiamo in radio. Da giù dalla strada fino a sopra il plaza, questa roba resta vera come un live giù in piazza. Radio XXX, solo robe vere schiette. Bella uomo da Lucard 47. Vodka, ghiaccio, lime a fette. Un chilo di anacardi e grammi 47. Per le dirette tiro ai 90. Ehi caramba, spezziamo le palette. Spingo rap, metto il jack, c'è lo show. Tripla X, doppia H e sbanco il jackpot. Mi hanno imparato ma ho capito di rado. Ora l'ignoranza la trasmetto in radio. Vino e che Yebinè, radio tripla X, Alucard 47, fuori ora con jackpot. Presto fuori, nuove puntate, ascolta Radio XXX, questo è l'inedito. Oh, oh, oh.